ricordo perché. Perché tu vuoi ballare con me, che son negato. Io ebbe a che fare coi ritmi cubani, ma non mi ricordo perché. Vangelo secondo Giovanni si recita così. Tu che guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non ti accorgi della droga che c'è nel tuo. Perché tu vuoi marciare con me, che sono sbandato e sono arrivato scalzo a Milano, e non mi ricordo perché. Del Vangelo secondo Matteo ci recita così. Chi è senza peccato, chi non ha mai sbagliato, allora scogli pure la prima pietra.